giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Buongiorno, bentrovati in giardino. Portami fuori, sediamoci in giardino. Volerò sulle ali delle farfalle, dice il testo di questa canzone. Una possibilità che dovrebbe essere concessa a tutti, perché, e lo capiremo nel corso di questa puntata, è fondamentale, specie in un periodo come questo, avere un luogo naturale dove poter ritrovare equilibrio ed energia. Il Politecnico di Milano in questo senso sta conducendo un'indagine sotto forma di questionario, progetto nato sotto il primo lockdown, per capire in che modo solo 20 minuti di immersione nella natura, vale a dire anche nel parchetto sotto casa, possono aiutarci ad affrontare meglio la giornata, specie se siamo sotto pressione, come lo sono ad esempio in questo momento i lavoratori della sanità, medici, infermieri, a cui è stato indirizzato in un primo momento questo progetto. Una nuova ricerca in sostanza, tesa a dimostrare scientificamente quanto parchi, giardini, spazi verdi siano strategici per riportare equilibrio, serenità e forza. Ne sa qualcosa la nostra ospite di oggi, che da anni crea Healing Gardens e che cura anche la ricerca di cui vi ho fatto cenno e a cui vi invitiamo a partecipare. Bentrovata al Giardino Segreto a Monica Botta. Buongiorno Roberta, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Monica Botta è un architetto, è una paesaggista, quindi crea giardini e insegna anche a farlo, però lei da subito ha un po' cambiato la prospettiva, cioè invece di pensare a curare e a far crescere il giardino, ha pensato a far sì che il giardino curasse noi, curasse lei e poi insomma tutti noi. Infatti insegna anche questo al Politecnico di Milano, è così? È così Roberta, in realtà penso che insomma la cura sia per tutti da parte della natura. Lei è generosa, quindi non guarda in faccia alle differenze e alle fragilità. Quindi partiamo da questo presupposto. Ecco. Sei una specialista in healing garden, in giardini della salute. Il fatto che il verde, il giardino, le piante possano essere terapeutiche è provato scientificamente. Tu dalla tua hai sia la scienza che l'esperienza, evidentemente, dopo tanti anni di healing garden. Ah sì, come dici tu, la scienza intanto aiuta ed è un supporto anche per proporre questo tipo di giardini all'interno di strutture sanitarie e sociosanitarie, perché ci sono 40 anni di ricerca, forse anche più ormai. In Italia ci stiamo arrivando pian pianino, ma ce la facciamo con diverse indagini rispetto al beneficio del verde. Tante indagini sono state fatte e tante vengono fatte. Una, per esempio, è nuovissima, è proprio curata da Monica Botta insieme al Politecnico di Milano, ed è un'indagine che ha indagato la natura ai tempi del Covid, diciamo così. Pillole di natura al tempo della pandemia si chiama questo progetto, vero? Sì, esattamente. È un progetto che ho portato avanti attraverso il Dipartimento dell'Università con cui collaboro, con il primo lockdown che abbiamo avuto in Italia. Però non ti nego che abbiamo riaperto di nuovo l'indagine proprio perché rispetto a questo primo momento in cui abbiamo verificato tutti i dati relativi a questa esperienza, ci siamo resi conto che il materiale era un materiale importante per capire proprio la bontà di che cosa vuol dire utilizzare la natura anche solo per 20 minuti in un momento anche delicato come può essere quello di un lockdown. Cioè voi avete chiesto alle persone, e in particolare parliamo delle persone che lavorano in ambiente sanitario, no? Quindi medici, sì, infermieri, operatori, di trovare nonostante tutto del tempo per rispondere a delle domande dopo aver fatto un'esperienza nella natura significa anche nel parco sotto casa. Sì, abbiamo messo insieme con il professor Capolongo, l'architetto Marco Gola e la sottoscritta, abbiamo messo insieme un'indagine che aveva l'intenzione di essere dedicata una parte al personale medico-sanitario e un'altra parte alla popolazione tutta. Chiaramente, lavorando noi sull'ambito sanitario, ci interessava capire come lo staff sanitario potesse rispondere in un momento così delicato a questo test, che in realtà prevedeva 20 minuti, 30 minuti al massimo di impegno, di cui 10 per rispondere a delle domande e 20 per usufruire di uno spazio verde. È stata interessante la risposta, perché il grande successo è stato che il 62% dei medici ci hanno risposto, quindi abbiamo avuto una grande attenzione e soprattutto molti ci hanno risposto, diciamo, da un momento difficile, cioè quello di essere tra una pausa e l'altra di lavoro in un reparto Covid. Quindi interessantissimo vedere come i 20 minuti a loro sono serviti per riprendere soprattutto su uno degli aspetti, diciamo, le macro aree dell'umore su cui noi abbiamo lavorato, abbiamo fatto indagine, cioè riprendere in vigore. E quello credo sia il fondamento un po' di quello che si auspica che i giardini diano, ma se lo danno in contesti lavorativi come questi, portano dei risultati sicuramente interessanti e soprattutto positivi per il benessere delle persone. Quindi i medici hanno testimoniato che una ventina di minuti in un'area verde, quindi in mezzo alla natura, sono in grado di restituire del vigore. Sembra magia. Sì. E non è magia, ma in realtà, se ci pensi, Roberta, lo fa anche con noi questo, la natura. Però soprattutto per le persone che sono in grande stress, questo test in realtà l'avevo già utilizzato in altre condizioni. Faccio un esempio, l'ho usato 2 anni fa con del personale medico sanitario di una struttura per l'Alzheimer, e quindi l'avevo proposto a delle operatrici che dopo 8 ore che lavoravano all'interno di una struttura per l'Alzheimer hanno fatto 20 minuti di giardino e il risultato è stato esemplare. In un momento in cui serve tutto, serve personale, sì, serve sì, attrezzatura, servono posti letto, eccetera, noi stiamo qui a parlare di giardini. Sembra che discorriamo del superfluo. No, perché non è superfluo. Se pensiamo che chi opera nel settore sanitario, le foto e le immagini che vediamo in televisione sono di persone che escono per prendere una boccata d'aria. Amici che lavorano in questo ambito mi raccontano che questo manca. E dove andare se non in un posto migliore come in un giardino, e dove rifarsi e non avere necessità di altri strumenti o di altre azioni se non quelle di, per esempio, contemplare uno spazio verde. Questo è talmente forte dal punto di vista proprio del risultato, che è migliore di qualsiasi pilloletta o qualsiasi altro passaggio. Non è che prende il posto, ovviamente, e non è la panacea per tutti i mali, ma siamo sicuri, perché la scienza ce lo indica, che questa può essere la strada, anche con queste somministrazioni così piccole, di pochi minuti, per riportare le persone in una condizione più di serenità, di avere più vigore, di perdere un po' d'ansia, di recuperare dalla depressione, magari di abbandonare la rabbia e riuscire a fare un po' più focus sulle situazioni, e quindi di perdere in confusione. Ed è tutto importantissimo, se non fondamentale. E pillole di natura ai tempi della pandemia, come ci dicevi, riprende, perché a partire da queste indagini scientifiche si può cominciare a ripensare anche il nostro futuro post pandemia, intendo dire come progettazione. In realtà lo sforzo che possiamo fare e dobbiamo fare a livello progettuale, io nasco come architetto, virata poi all'architettura del paesaggio, non fosse altro perché le tradizioni, le radici mie sono queste. L'architettura, se tu pensi all'architettura degli ospedali, se tu pensi all'architettura degli edifici lavorativi, delle scuole, voilà, di tutte quelle strutture sanitarie, pubbliche, sociali, deve essere in stretto contatto con la natura. Quando lo è, porta dei risultati incredibili. Ti faccio pensare a quante persone in lockdown hanno spostato la loro sede lavorativa stando a lavorare in smart working sul terrazzo di casa, per tutti esempio. Tutti quelli che hanno potuto. Voilà. O nella casa di campagna. Esatto, tant'è vero che ti dico che il risultato di questa ricerca, che uscirà ufficialmente su Health, Environment and Design Journal, diciamo una delle riviste americane più importanti di ricerca, uscirà, speriamo, entro dicembre, è evidente proprio dalla ricerca che abbiamo fatto che l'80% delle persone che hanno partecipato hanno svolto l'indagine in un'area verde privata. L'area verde privata quindi regala maggiori benefici rispetto a quella pubblica, in base a questo studio? Beh, sicuramente lo stato di comfort che io e te potremmo avere nel giardino di casa è forse maggiore rispetto a quello che potremmo avere in un giardino pubblico, no? Perché ci sentiamo a nostro agio, perché è il nostro spazio, perché l'abbiamo anche magari noi. Esatto. Voilà, esattamente. L'abbiamo creato come ci interessava averlo, come l'abbiamo pensato, ecco. Quindi questo porta sicuramente ad avere una soglia di, penso, di percezione dell'ambiente migliore rispetto magari a un ambiente pubblico. E poi va da sé che comunque, torno a dirlo, questo non è sempre detto, perché bisogna anche capire come poi la qualità del verde che abbiamo utilizzato per fare questa esperienza ci ha coinvolto. E quindi la qualità sicuramente degli spazi verdi è importante anche per dare beneficio, tant'è vero che in questo nuovo test che abbiamo rilanciato proprio oggi e che rimarrà fuori per le prossime settimane, abbiamo introdotto questo tema della qualità, perché ci sembrava opportuno, no, dire: secondo voi il giardino o lo spazio dove state facendo questa esperienza che qualità ha, alta o bassa? È importante, non è sempre detto che tutti gli spazi siano qualificanti, ecco. Faccio un esempio: mi è capitato di fare questo test anni fa con degli studenti della facoltà di architettura, ero durante un master, facevo una lezione, li ho portati fuori, sono tornati tutti arrabbiatissimi e io non capivo. Avevano utilizzato il giardino del Politecnico, quello antistante alla piazza a Milano. In realtà è uno spazio molto bello, ma loro l'avevano vissuto in un momento un po' strano, cioè post laurea era pieno zeppo di cartoni, di fogliettini eccetera, quindi c'erano stati i festeggiamenti il giorno stesso per le lauree, era tappezzato di sporco e loro si sono sentiti infastiditi, quindi il test non è andato bene, certo. È andato male, certo. Per la qualità del verde che loro hanno utilizzato, quindi importantissimo questo. Beh, fondamentale la qualità del verde, tu progetti questo tipo di verde da tempo del resto e dietro c'è uno studio. Volevo continuare su questo secondo sondaggio che non è indirizzato esclusivamente a medici e infermieri, giusto? Chiunque può partecipare? No. Sì, sì. Come? Sì, sì, tutti. Intanto c'è bisogno di 20-30 minuti, ci sono una decina di domande iniziali e poi chiediamo alle persone di prendersi 20 minuti per stare nella natura con molta consapevolezza, ciò vuol dire senza il nostro beneamato cellulare, senza distrazioni, con molta presenza noi stessi, perché l'attenzione alle nostre sensazioni è quella che ci porta ad avere poi un beneficio da quello che è il ritorno che ci dà la natura. Dopo l'immersione nella natura chiediamo di rifare esattamente lo stesso test, in modo che possiamo vedere dai dati prima e dai dati dopo come cambia il profilo dell'umore della persona. Con molta, molta attenzione ad essere presenti a noi stessi, lo dico perché è il motivo per cui questo test funziona ed è funzionale anche ad avere un risultato. Molto presenti a noi stessi e molto presenti anche e molto attenti anche a quello che ci circonda, perché la natura è sempre lì. La differenza la fa la nostra attenzione nei suoi confronti. È incredibile come concentrandoci anche su una pianta, su un fiore, su un piccolo animaletto che cammina su una foglia, già insomma l'effetto zen si è assicurato. Tutto sta nel concentrarsi su quello che abbiamo intorno, mentre molto spesso, ancora molto spesso, le piante non le vediamo. Sì, però lo stiamo dicendo adesso, per esempio, che siamo in un momento in cui non si può non vedere che cosa ci sta dando la natura con questi colori così accesi. E quindi anche il test fatto adesso, a differenza magari di un periodo come quello primaverile, non nego che possa essere interessante. Ci piacerebbe comprendere anche quali sono le sensazioni dal punto di vista tattile, olfattivo, visivo o sonoro. Perché ora tutti che... i sensi vengono incantati. Eh sì, sicuramente. Dovremmo essere così. Poi sta chiaramente anche a quanto siamo visivi, uditivi o cinestesici nella vita. Cinestesici quindi vuol dire tutto quello che riguarda il tatto, il toccare, perché la natura noi la tocchiamo moltissimo. E basti pensare quanto lo facciamo normalmente con i piedi e non ci rendiamo conto che, per esempio, lo scricchiolare delle foglie possa essere, dal punto di vista percettivo, un'esperienza interessante adesso, magari molto più che questa primavera. Figurarsi i piedi nudi, e il clima ancora lo consente. Ah, fantastico, dici una cosa bellissima, a piedi nudi. Fantastico davvero. Non dimenticare che la terra si diverte a sentire i tuoi piedi nudi e il vento a giocare con i tuoi capelli. Halil Gibran. Per partecipare al progetto di ricerca del Politecnico di Milano, Pillole di Natura ai tempi della pandemia, si chiama, basta andare su monicabotta.com, il sito dell'architetto Botta, che tra poco ci svelerà come costruire in piccolo un healing garden, quindi un giardino in grado di curarci anche sui nostri balconi e terrazzi di città. State lì. 1, 2, 3, chi non scappa c'è, non scappate, restate con me. Io mi faccio in tre per restare con voi. Tre appuntamenti quotidiani per investire ogni giorno in salute. Ve li ricordo: al mattino dopo il primo GR per cominciare bene la giornata, a mezzogiorno per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e poi ci vediamo in video per un confronto diretto tu per tu con l'esperto del giorno. Sono Nicoletta Carbone, vi aspetto qui su Radio 24 ogni giorno perché il nostro obiettivo è la salute. Il giardino segreto. Non ci sono due giardini uguali. Non ci sono due giorni uguali nello stesso giardino. Hugh Johnson. Bentornati in compagnia del Giardino Segreto e dell'architetto paesaggista Monica Botta, specializzata in Living Gardens, i giardini terapeutici che crea da anni per le persone più fragili, malati, disabili, anziani. E per ognuno c'è un giardino diverso, vero? Sì, prima ti parlavo di Alzheimer, è chiaro che la progettazione di un giardino per l'Alzheimer prevede tutta una serie di dinamiche progettuali che vanno condivise. I giardini di terapia lavorano sul benessere della persona. Il benessere della persona non è solo assenza di malattia, quindi il benessere va individuato in un concetto un po' più olistico. Quindi il supporto alle persone è fondamentale al di là dell'esclusione solo della malattia. E quindi l'esempio palese è di questo progetto che io ho fermo nel cassetto e che spero riusciremo a realizzare, di questo giardino terapeutico per malati di Alzheimer, anche questo, in cui mi sono state fatte delle richieste un po' particolari, perché chiaramente chi lavorava all'interno della struttura aveva già esperienze altre, quindi l'orto per fare giardinaggio. Il tema della sensorialità, in questo caso lavorare su delle essenze che vengono utilizzate per esempio all'interno della struttura per fare aromaterapia e quindi stesse riutilizzate, ritrovate fuori in forma fisica, dalla lavanda, al rosmarino e così via. L'aspetto della pet therapy, importantissimo per esempio, quanto la terapia con gli animali può essere portata all'esterno, può funzionare magari anche di più all'esterno, perché è richiamo verso il giardino, è occasione per cui io esco a vedere il cane, a vedere le galline, a vedere i coniglietti e così via. Questo parlando dell'Alzheimer. Se ti parlo invece di progetti per persone non vedenti, stiamo realizzando uno interessante che inaugureremo a brevissimo in Puglia, è un giardino dedicato alle persone non vedenti. Qui abbiamo lavorato sulla sensorialità legata al tatto, all'olfatto e all'udito. Come cammino, che superfici tocco con le mani, che superfici tocco con i piedi, che sensazioni olfattive ho per capire dove sono, in che area del giardino sono, che esperienza uditiva ho, se sono le foglie, se sono i sonagli nel vento, se è il mio toccare le cose in maniera differente, che suonano anche al tatto diversamente. Quindi poi ci sono piante che fanno dei rumori anche soltanto, esattamente, le graminacee, esattamente. Infatti in realtà sto parlando di questo, no? Però lo trasformo nella percezione che chiaramente io devo dare, no? Ovviamente sto andando a cercare di aiutare a leggere il giardino a persone che hanno delle difficoltà visive e la lettura è una lettura che noi auspichiamo per questo spazio, per esempio in totale autonomia, quindi una parte di questo giardino sarà realizzato con dei corrimani che permetteranno una totale autonomia, cioè lasciare la persona che ci accompagna o lasciare il bastone per poter seguire il giardino con in una corda e in sicurezza. E quindi sì, riacquisti libertà, sì, anche e autostima. Penso che sia il fondamento dei giardini, in realtà. Se pensi al fatto che tante persone che vivono in strutture sanitarie hanno in prima cosa l'autonomia fermata, bloccata, dimenticata quasi, e il giardino offre una grandissima occasione, un'occasione di poterlo gustare. Dicevi prima una cosa molto bella, e per esempio una cosa che in questo giardino che abbiamo realizzato a Ferrara hanno fatto fare l'esperienza a un numero discreto di ospiti di mettere i piedi nel prato senza scarpe e senza calze. per esempio, a persone che magari sono in carrozzina da diverso tempo. Sì. Ecco, capisci bene il potere forte di questa esperienza, che è banale per noi, per me e per te, ma non è per niente banale per chi sta su una carrozzina, questa esperienza magari non ce l'ha da 10 anni, forse anche più. Io vivo in appartamento a Milano, camminare nell'erba più di nudi non è banale neanche per me, dico la verità. E chiedo in questo momento ai cittadini all'ascolto quanto spesso gli capiti un'esperienza così. Ormai per chi vive in città non è più così frequente, dobbiamo ammetterlo, dobbiamo anche recuperare tutto questo, io credo. Sì, sì, sicuramente ci sono delle esperienze che ci aiutano a riprendere anche contatto con una parte di noi e magari anche una parte che abbiamo dimenticato di avere, cioè l'esperienza tattile legata ai piedi. Ora, a me piace molto camminare scalza, ho la fortuna di abitare in campagna, ho scelto di abitare anche in campagna e non ti nego che invece io d'estate sono spesso scalza in giardino, quindi questo mi riconnette molto a tutte le cose. E le ho riportate, sono sincera, anche nell'ultima pubblicazione che ho fatto, perché ci tenevo a far capire quanto sia importante rispetto a questo tipo di lavoro l'osservazione che si fa. Caro giardino, prenditi cura di me, è la pubblicazione, libreria della natura, se vogliamo insomma ritrovare l'esperienza di Monica Botta nell'ambito degli Healing Gardens. Ecco, vorrei farti una domanda difficile per chiudere questa nostra conversazione. Nessuno di noi è un architetto paesaggista, pochissimi di noi hanno anche solo un piccolo giardino urbano, ma ci siamo e ci stiamo contornando di piante in questo anno di lockdown. Ci puoi dare qualche consiglio per ricreare in un piccolo giardino urbano o anche su un balcone, un terrazzo, qualcosa che si avvicini a un giardino terapeutico? Considerato, e sto generalizzando, che in questo momento un po' diffuso in tutta Italia, per non dire in tutto il mondo, c'è cioè un po' di ansia, un po' di depressione, spesso l'insonnia. Difficile. Guarda, no, non è difficile. In realtà, secondo me, partire dal presupposto che c'è bisogno di ascoltarci un po', e per ascoltarci un po' possiamo provare veramente a passare attraverso i nostri sensi. Per cui ti direi, indubbiamente, delle aromatiche, perché non c'è niente di più bello che accarezzare una salvia, un rosmarino, una menta, che possono peraltro poi essere usate anche in casa, in cucina, ma sentirne il profumo, averlo sulle mani. Quindi questo aspetto. E poi chiaramente l'aspetto della gratificazione visiva, quindi il più possibile prestare cura a quello che andiamo ad inserire all'interno di questi piccoli spazi, il colore, le fioriture che sono importanti, i profumi che ne derivano da queste fioriture. Quindi io ti direi, forse su un terrazzo healing, tutto quello che ha a che fare con l'esperienza sensoriale di tutti i sensi, con delle graminacee che quando si muovono fanno un fruscio, addirittura un bambù che schiocca quando battono uno contro l'altro, ai profumi delle aromatiche, alle fioriture di rose che sono generose, perché no, pungono anche, ma almeno ci si ricorda che le abbiamo messe, alle texture delle piante, quindi tutto l'aspetto legato a il toccare una pianta, al sentirla nelle mani, fra le mani, l'effetto e l'esperienza che ci dà. She's got a secret garden where everything you want, where everything you need will always stay a million miles away. È tutto per oggi. MonicaBotta.com per partecipare alla ricerca del Politecnico di Milano. Caro giardino, prenditi cura di me, il libro per scoprire un po' di più sugli Healing Gardens. Grazie per avermi seguito. Vi aspetto domenica prossima nel giardino di Radio 24. Una buona settimana da Roberta Pellegatta.